E vorresti fare lo scrittore. Se non ti esplode dentro agli aspetti di tutto, non farlo. A meno che non ti venga dritto dal cuore, dalla mente, dalla bocca, dalle viscere. A non farlo. E se devi startene seduto sul cesso per ore, a fissare lo schermo del computer o curvo sulla macchina da scrivere alla ricerca di parole, beh, non farlo. Se lo fai per soldi o per fama, non farlo. Se lo fai perché vuoi delle donne nel letto, non farlo. Se devi startene lì a scrivere, a riscrivere, non farlo. Se è già una fatica il solo pensiero di farlo, non farlo. E se stai cercando di farlo perché vuoi scrivere come qualcun altro, lascia perdere. Oh, e se invece devi aspettare che ti esca come un ruggito, allora aspetta, pazientemente. Eh beh, ma se non ti esce mai quel ruggito, fai qualcos'altro, no? Ah, e se prima devi leggerlo a tua moglie, o al tuo ragazzo, alla tua ragazza, ai tuoi genitori, o comunque a qualcun altro, non sei pronto. Le biblioteche del mondo hanno sbadigliato fino ad addormentarsi per tipi come te. Non aggiungerti a loro, non farlo. A meno che non ti esca dall'anima come un razzo, a meno che lo starfemo non ti porti al suicidio, alla follia, all'omicidio, non farlo. A meno che il sole dentro di te stia bruciandoti le viscere, non farlo. Quando sarà veramente il momento, e se sei predestinato... Si farà da sé e continuerà finché tu morirai o morirà in te. Non c'è altro modo. E non c'è mai stato. Mi chiamo Charles Bukowski. Quando ero molto giovane, dividevo equamente il mio tempo tra bar e biblioteche. Beh, come riuscissi a provvedere agli altri miei normali bisogni resta un mistero. Boh, poi che semplicemente non me ne preoccupavo più di tanto. Se avevo un libro o qualcosa da bere. Beh, allora non pensavo troppo a tutto il resto. Gli scemi, sì. Gli scemi riescono a costruirsi dei paradisi artificiali. Ricordo di un tizio che ha scritto un libro intero nel quale dimostrava che la luna non c'è. E ci riusciva talmente bene che alla fine tu pensavi: questo tizio ha assolutamente ragione. La luna non c'è. Ma erano i filosofi che soddisfacevano quel bisogno che si celava da qualche parte nella mia testa confusa. Spesso mi incantavano, saltavano fuori con affermazioni azzardate, infiammate, che mi sembravano verità assoluta. E quel tipo di sicurezza era quello che io cercavo nella vita di ogni giorno, che assomigliava molto di più ad un pezzo di cartone. Quei tizi erano dei grandi. Mi hanno aiutato a sopportare giorni come rasoi e notti piene di ratti. E il giorno in biblioteca. E le notti al bar. E adesso non resta che aggiustare i momenti rotti. Che da bambino credo di non essere stato mai del tutto normale. I miei momenti preferiti erano quando venivo lasciato da solo in casa al sabato. Era il mio momento preferito, il sabato pomeriggio, perché c'era ombra allora, c'era calma. C'era una grande Victrola verticale nell'angolo in soggiorno e si caricava con la manovella di lato. Allora io prendevo tutti quanti i dischi del fonografo e li sparpagliavo tutti sul pavimento, però leggevo, facevo suonare solo quelli con l'etichetta viola scura, perché in realtà non è che mi piacesse poi tanto la musica. Infatti mettevo il dito sul disco, rallentavo il suono e guardavo quel disco che girava. E mentre girava c'erano delle immagini che mi venivano alla testa, che erano fantastiche. una tigre. Una tigre che sbranava qualcosa. Una cascata. Le pantofole in pelle di mio padre, quando le infilava la mattina. E infatti subito dopo prendevo tutti i dischi e li rimettevo a posto, diligentemente. Subito dopo. Subito dopo veniva il momento dell'orologio sulla mensola. L'orologio sulla mensola aveva delle lancette, dei secondi grandi, irresistibili. Allora io mi sdraiavo sul pavimento, aspettavo che toccassero il 12 e poi la gara aveva inizio. Io contro la lancetta dei secondi. Beh, ogni volta trattenevo il fiato e lo dovevo trattenere ogni volta un po' di più. Ed era difficile, ogni volta era un po' più difficile, ma il record mondiale era importante. Io me ne stavo lì sul pavimento a trattenere il fiato e ogni volta era sempre più difficile. Mentre sentivo nella mia testa la voce eccitata di un annunciatore che diceva: signori e signori, anche questa volta ci sarà il nuovo record mondiale. E io me ne stavo lì a contorcermi mentre esplosioni di colore mi venivano davanti gli occhi: rosso, giallo, blu, viola. Poi tiravo il fiato, guardavo la lancetta dei secondi e ce l'avevo fatta. 15 secondi in più rispetto al precedente. Poi mi alzavo, andavo in cucina, bevevo un bicchiere d'acqua. Non lo so perché. Però dopodiché bevevo sempre un bicchiere d'acqua. E subito dopo arrivavano i miei. Mia madre prima. E mio padre poi. No, mia madre non diceva niente, indaffarata come era in cucina. Ma mio padre sì. Mio padre aveva sempre qualcosa da dire ed era sempre la stessa. Ehi Hank, che cosa hai fatto tutto il giorno? Niente. Niente. Che fottutissima di risposta è mai niente. Beh, non gliel'avrei mai detto. Non a lui. Mi sarei fatto uccidere. Ma lui non l'avrebbe mai saputo. Lui e le sue braccia pelose. Lui e le sue pantofole in pelle. Eh no. Qualsiasi cosa avessi fatto apparteneva soltanto a me. Quando avevo 16 anni, c'era solo qualche scrittore a darmi speranza e conforto. A mio padre non piacevano i libri, no, e a mia madre neppure, ma perché non piacevano al babbo, specie i libri che prendevo io in biblioteca. Lawrence, Dostoevskij. Avevo la mia camera da letto, ma alle 8 di sera bisognava filare tutti a nanna. Il mattino all'oro in bocca, diceva mio padre, e poi gridava: luci spente! Allora mettevo la lampada sotto le coperte e continuavo a leggere sotto la luce calda e nascosta. Ibsen, Shakespeare, Chekhov. Mi offrivano un'opportunità e qualche speranza. In un posto senza opportunità, speranza e sentimento. Me la guadagnavo. Faceva caldo sotto le coperte. Qualche volta fumavano le lenzuola, allora spegnevo la lampada e la tenevo fuori per farla raffreddare. Senza quei libri, non sono del tutto sicuro di cosa sarei diventato. Delirante, parricida, idiota, buona a nulla. Quando mio padre gridava luci spente, sono sicuro che lo terrorizzava la parola bentornita immortalata una volta per tutte nelle pagine migliori della nostra più bella letteratura. Ed essere lì per me, vicino a me, sotto le coperte, più donna di una donna, più uomo di un uomo, era tutta per me ed io me la presi. Culo. Fanculo che mal di schiena. Oh, mal di schiena. Mi sento pure gonfio. Ma dovrei tagliare le unghie dei piedi, eh? E invece sto qua a fumare a mezzanotte passata. La radio al minimo. La notte tiepida. Questa vista sull'autostrada. Alle corse continuano ad avvicinarmi sconosciuti che hanno voglia di parlare. Hanno delle facce orribili e giallastre. Ripensando alla mia giornata mi sento appesantito, stanco. Però sì, vabbè, ho vinto, ok. Ma non è che star qui ad aspettare la morte sia un granché come hobby, no? E per farlo mi pagano. E chi l'avrebbe mai immaginato? Io ho lavorato per decenni e mi hanno sempre irritato tutte quelle ore, gli anni, i minuti che gli ho dedicato lavorando come un mulo. Mi hanno fatto male dentro. Mi hanno fatto diventare pazzo. Non riuscivo ad accettare tutti quegli anni assassinati dal lavoro. Eppure, i miei compagni di lavoro non davano segni di agonia. No, loro sembravano addirittura soddisfatti. Però qualcosa dentro di me diceva... Lo sapeva che stavo morendo. Qualcosa mi diceva... E muori. E spegniti, diventa come loro, accettalo. E poi qualcos'altro diceva... No, salva un pezzetto minuscolo, salva una scintilla può incendiare un'intera foresta, salvala. Ma io credo di esserci riuscito, no? Sono fiero di esserci riuscito. Che stramaledetta fortuna. I like my town with a little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains. Quello, insomma, quello che mi piace di te è che sei rozzo. Ti guardo mentre sei seduto lì, bicchiere di birra in mano, sigaro in bocca. E guardo la tua pancia, sozza e pelosa, che ti esce fuori dalla camicia. Ti sei tolto le scarpe e hai un buco nel calzino destro riempito dal ditone che ne esce fuori. Non ti fai la barba da 4-5 giorni. Hai i denti gialli e le sopracciglia che ti penzolano tutte attorcigliate. C'è sempre quell'anello di sporcizia nella tua vasca da bagno. Il tuo telefono è coperto di grasso e metà della roba che hai in frigo è marcia. Leggi riviste sconce. Non hai neanche la TV. Sì, e cosa migliore? Oh, cosa migliore che non fai nulla per cercare di convincere una donna a venire a letto con te. Dio, non sembri per niente interessato e guarda, mentre parlo non dici una parola, non fai che startene lì, con la faccia rivolta contro il muro, come se non mi ascoltassi. E non ti lamenti mai di niente, non fai mai domande. E io ti conosco da 6 mesi e non so chi sei. Sei come una tappa rallabassata. Oh, ma è questo che mi piace di te, che sei rozzo. Una donna, oh sì, una donna può andarsene dalla tua vita e dimenticarsi di te in un attimo. Una donna può andare solo meglio dopo essere stata con te, tesoro. Tu devi essere la cosa più bella che sia mai capitata ad una ragazza, che si trova tra una storia finita e non ha niente di meglio da fare per il momento. Oh. Oh, sto cazzo di scotch è proprio buono. Facciamo una partita a Scrabeo? Ma vammi. Quando penso a tutto quello che ho passato per fare lo scrittore, tutte quelle stanze in tutte quelle città, sgranocchiavo minuscoli pezzetti di cibo che non avrebbero tenuto in vita un topo. Ero così magro che avrei potuto affettare il pane con le scapole, ma di pane non ne avevo quasi mai. E intanto scrivevo, riscrivevo su pezzi di carta. Infatti ogni volta che mi spostavo da un posto all'altro, la mia valigia di cartone non era che questo. Carta, piena di carta. Ogni nuova padrona di casa mi chiedeva: e lei? Lei cosa fa? Lo scrittore. E appena mi stabilivo in minuscole stanze a evocare le mie arti, molte di loro provavano pietà per me e mi davano piccole leccornie, tipo mele, noci, pesche. Non potevano di certo immaginare che era più o meno tutto quello che mangiavo. Ma la loro pietà finiva quando trovavano bottiglia di vino vuoto, a buon mercato, nella mia stanza. Essere uno scrittore morto di fame va bene, ma non uno scrittore morto di fame che beve. Agli ubriaconi non si perdono mai nulla. E il fatto è che quando ti crolla il mondo addosso, ma è una bottiglia di vino, può essere un'amicizia molto sensata. E tutte quelle padrone di casa, per la maggior parte lente, pesanti. E i mariti morti da tempo. Riesco ancora a vederle salire e scendere le scale del loro bel mondo. Hanno riassettato la mia esistenza. Se non mi avessero concesso di tanto in tanto una settimana in più per l'affitto, sarei finito in mezzo alla strada. E no, non avrei potuto scrivere in mezzo alla strada. Pensavo spesso a quegli editori là fuori che mi rifiutavano e che non capivano che cosa stessi cercando di dire. Sì, vabbè, a modo mio. E pensavo, sono loro a sbagliare. Però poi a questo seguiva un pensiero decisamente peggiore. Forse sono un cretino. È normale. Ogni scrittore pensa di star realizzando opere straordinarie. È normale. Essere cretini è normale. Però poi mi alzavo dal letto, prendevo un pezzo di carta e ricominciavo a scrivere. Qualche città. È notte. Dio, si è perso. Dov'è la tua stanza? Entri in un bar per trovare te stesso. Ordini whisky, whisky con acqua. E l'umidità viscida di quel dannato locale ti inzuppa fino alle maniche. È un pub di cialtroni. Lo scotch è fiacco. Ordina una bottiglia di birra. Madama, morte, ti viene vicino un abito da sera. Siede. Le ordini una birra. Dio, lei puzza di marcio e ti preme contro una gamba. Il barman sogghigna. Oh, lo fai preoccupare. Non sai dire chi sei? Uno sbirro, eh? Oh no, no, no, no, no. No, un killer. Oh no, un pazzo, forse un idiota, eh? Una vodka. Versi la vodka nella bottiglia di birra. È l'una delle notte in un mondo da cani. E le chiedi quanto costa un pompino. E ingogli il tuo cocktail. E sa di olio per auto. Lasci lì Madama Morte, il barman ghignante. Ti sei ricordato dov'è la tua stanza? La stanza con la bottiglia piena sul comò? La stanza dove danzano gli scarafaggi? Perfezione stellare. Oh, dove muore l'amore, ridendo. Già, mio padre. Mio padre a volte insinuava che ero un bastardo. Allora io gli dicevo: beh, mettiti a leggere, ascolta Brahms, ma non farti dominare dalle donne e né dai dollari. Mi ricordo di mio padre che mi diceva: per l'amor di Dio, ricorda tua madre, ricorda il tuo paese. Ci farai morire tutti. E giro nella casa di mio padre. Una casa che non aveva finito di pagare dopo 20 anni dello stesso lavoro. Guardo le sue scarpe, stecchite. Quel modo in cui i piedi incresparono il cuoio, come se irosamente stesse piantando rose. E così era. E guardo la sua ultima sigaretta, la sua morta sigaretta. È l'ultimo letto in cui dormi quella notte. E penso che forse dovrei rifarlo, ma non posso. Perché un padre è sempre il tuo maestro, no? Anche quando non c'è più. Penso che queste cose siano accadute molto spesso, sì, ma non posso fare a meno di pensare. Morire su un pavimento di cucina mentre gli altri friggono le uova. No, non è poi così male, no? Se non capita a te, un culo esco. Stacco un'arancia, le cose sono ancora vive. L'erba cresce che è un piacere, il sole fa muovere i suoi raggi tra i giri di un satellite russo e un cane sciocco ladra chissà dove. I vicini spiano da dietro le tendine. E beh, io qui sono un estraneo, no? Immagino che mi abbia descritto proprio bene. Ero la pecora nera. Il vecchio io lottavamo come leoni di montagna. E dicono che abbia lasciato tutto ad una donna di Duarte, ma non me ne importa un fico. Se lo tenga. Era il mio vecchio. Ed è morto. Dentro mi provo un vestito celeste. È la cosa più bella che abbia mai indossato. E muovo le braccia come uno spaventapasseri nel vento, ma non serve. Per quanto lo odiassi, non posso riportarlo in vita. Identici eravamo. Avremmo potuto essere gemelli il vecchio io. Almeno così dicevano. Lui teneva i suoi bulbi nel crivello pronti per essere piantati, mentre io me la spassavo con una battona della quinta strada. E vabbè. Lasciatemi questo momento. Ritto. Davanti allo specchio. In questo vestito di mio padre morto. Mentre aspetto di morire anch'io. Oddio. Una delle cose più terribili è davvero stare a letto una notte dopo l'altra con una donna che non ha più voglia di scopare. Invecchiano, non sono più tanto belle. Tendono persino a ruzzare, a buttarsi giù. Beh, e così a letto a volte ti giri, il tuo piede tocca il suo. E la notte là fuori, dietro quelle tendine. E insieme si suggella nella tomba. E la mattina ti alzi, vai in bagno, parli attraverso il corridoio, dici cose strane, parole strane. Le uova friggono, partono i motori. Ma seduti l'uno di fronte all'altro... ai due estranei che si ficcano in bocca il pane tostato, si bruciano col caffè bollente, la gola risentita e l'intestino in fiamme. Dio, che orrore! Che cos'è l'amore? Chi lo ha vinto? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo. Guaire la stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chiedilo alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima porta. Mi sento come una scatola di sardine, disse lei. Mi sento come un cerotto, dissi io. Mi sento come un panino al tonno, disse lei. Mi sento come un pomodoro, dissi io. Mi sento come se stesse per piovere, disse lei. Mi sento come se si fosse fermato l'orologio, dissi io. Mi sento come se la porta fosse aperta, disse lei. Mi sento come se stesse per entrare un elefante, dissi io. Mi sento che dovremmo pagare l'affitto, disse lei. Mi sento che dovremmo trovare lavoro, dissi io. No, mi sento che dovresti trovare lavoro, disse lei. Non me la sento di lavorare, dissi io. Mi sento che di me non te ne importa, disse lei. Mi sento che potremmo fare l'amore, dissi io, no? Mi sento che l'amore l'abbiamo fatto fin troppo, disse lei. E mi sento che potremmo farlo più spesso, dissi io, no? Mi sento che dovresti trovare un lavoro, disse lei. Oh, mi sento che dovresti trovare un lavoro, dissi io. Mi sento una gran voglia di bere, disse lei. Mi sento come una bottiglia di whisky, disse io. Mi sento, oh sì, che finiremo come due ubriaconi, disse lei. Mi sento che c'hai ragione, disse io. Mi sento di mollare tutto, disse lei. Mi sento che ho bisogno di un bagno, disse io. Sì, anch'io sento che ho bisogno di un bagno, disse lei. Ma allora mi sento che magari potresti lavarmi la schiena, no? Disse io. Mi sento che tu non mi ami, disse lei. Mi sento che ti amo, dissi io. Oh, mi sento quel coso dentro adesso, disse lei. Anch'io mi sento che qualcosa è dentro di te, dissi io. Oh, mi sento che ti amo, disse lei. Anch'io mi sento che ti amo, dissi io. Mi sento benone, disse lei. Ho voglia di urlare. Mi sento che non la smetterei più, dissi io. Mi sento che ne saresti capace, disse lei. Mi sento, dissi io. Di notte mi siedo sul letto e ti ascolto russare. Ti ho incontrata in un'autostazione ed ora guardo con stupore la tua schiena bianca fino alla nausea, piena di lentiggini infantili, mentre il lume rovescia l'insolubile dolore del mondo sul tuo sonno. Non posso vedere i tuoi piedi, ma devo immaginare che siano piedini deliziosi. A chi appartieni? Sei vera? Ripenso ad animali, uccelli, fiori. Sembrano tutti più buoni, tutti così chiaramente reali. Ma non puoi fare a meno di essere una donna. Siamo tutti destinati ad essere un qualcosa. Il ragno, la cuoca, l'elefante. È come se ciascuno fosse un quadro appeso al muro in una qualche galleria. E ora il quadro si gira sulla schiena e sopra il gomito piegato. Posso vedere a mezza bocca, un occhio e quasi un naso. Il resto di te è nascosto. Invisibile. Ma io so che sei un'opera moderna, contemporanea, forse non immortale, però ci siamo amati. Continua a russare, ti prego. Aspettando la morte come un gatto. un gatto che ti sta per balzare sul letto. Mi spiace così tanto per mia moglie. Lei vedrà questo corpo rigido, bianco. Lo scuoterà una volta, poi forse ancora. Hank! Hank. Hank non risponderà. Ma non è la mia morte quella che mi preoccupa. È lasciare mia moglie con questa pila di niente. Però vorrei che lei sapesse che tutte le cose passate insieme, anche le discussioni più inutili, le cose più stupide, erano tutte cose bellissime. Tutte quelle parole che ho sempre avuto paura di dire, ora possono essere dette. Io ti amo. Esattamente alla mezzanotte 1973-1974, Los Angeles. Cominciò a piovere sulle foglie di palma davanti alla mia finestra. Clacson e mortaretti strepitarono e si udì un tuono. Io ero andata a letto alle 9. Spensi la luce e tira via le coperte. La loro gagliezza, la loro felicità, i loro strilli, i loro cappelli di carta, le loro automobili, le loro donne, i loro ubriaconi dilettanti. È l'ultimo giorno dell'anno e mi terrorizza sempre. La vita non sa nulla degli anni. Ora i clacson hanno smesso di suonare e mortaretti e il tuono. Tutto finito in 5 minuti. Tutto quello che sento è la pioggia sulle foglie di palma e penso. Io non li capirò mai gli uomini, ma sono ancora vivo. Non avete idea di che corsa adorabile e selvaggia sia stata questa. Sì che ora riempio il mio bicchiere e brindo a tutto quanto. Ai miei fedeli lettori, che mi hanno tenuto sempre a galla. A mia moglie, ai miei gatti, al mio editore e alla mia auto che mi aspetta qua fuori per portarmi domani alle corse. E brindo all'ultima riga che mai scriverò. È stato un miracolo, al di là di ogni miracolo. Cin cin, come si diceva un tempo. Grazie.